Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. RadioTube Social Village di Marta Cagnola. 16:06 minuti e 18 secondi a Radio 24. E beh, questa è l'ultima puntata in diretta per qualche settimana. Non potrò più dare l'inizio del nostro sabato pomeriggio in diretta con RadioTube, solo per qualche settimana, poi ci ritroviamo in diretta a settembre. Però non vi mancherò, lo so che è più una minaccia che una promessa, ma poi vi racconterò tutti i momenti in cui ci sentiremo anche durante il mese d'agosto. Intanto buon sabato pomeriggio a tutti, 349-238-6666, il numero per i vostri sms, per i vostri whatsapp, e poi ci sono i miei account social su Twitter e su Instagram, @MartaCagnola. Tantissimi ospiti anche per quest'ultima puntata della stagione di RadioTube. Ho fatto i conti, la sesta stagione, cominciamo ad essere piuttosto anziani, sono un sacco di puntate. Allora, parleremo di musica, parleremo di televisione, parleremo ovviamente dell'attualità della rete, dalla rete nella seconda ora. Ma adesso parliamo di qualcosa di molto particolare. Tra l'altro c'è una coincidenza, perché io ascoltavo, mentre arrivavo in radio, il bellissimo reportage da Ostia di Giorgio Stamatopoulos, e lui ha usato proprio un pezzettino di questo stesso film che evidentemente ci è rimasto nel cuore. Domenica d'agosto, un film di tanti tanti anni fa, che raccontava così. Ciao mamma, ciao Amleto. Ciao Luci. Che se magna? Tra poco è pronto, dà una maneggiata a quella pila e senti se sto cotti i fagioli. Vabbè. Fagioli con le codiche. Boni. Ma che corri oggi? No, mi sono vestito per farmi fotografare. Quando non mangi diventi spiritoso. Ma che state, sempre a litigare voi due? Per forza, non senti come risponde quello? Mi domanda se corro oggi, ma se c'è scritto su tutti i giornali. Io non li leggo i giornali. Già, tu leggi solo i giornali a fumetti. Perché, te secca? Ho lo strano ragazzo, sembra innamorato di te perché sei bella ed egli adora il bello. Lo dice sempre, però ti conosce appena. Amore a prima vista, ci credi tu? Ci credi tu all'amore a prima vista? Beh, le ragazze di questi film di Luciano Emmer ci credevano ancora. E Lucia cosa leggeva? Il fratello gli dice: leggi solo i giornali a fumetti. E poi si vede che però Lucia non legge proprio i fumetti, legge i fotoromanzi. I fotoromanzi ci raccontano di un'età meravigliosa. Sono talmente famosi che c'è una copertina del settimanale Sogno degli anni 50 con la foto di Sophia Loren, che è addirittura tuttora esposta al MoMA di New York. La copertina di Sogno, un giornale di tanto tempo fa, ma anche un giornale di oggi, perché mi piace festeggiare il fatto che Sogno ritorni in edicola, è tornato in edicola ieri. Sono molto contenta di dare il benvenuto a RadioTube al direttore Mario Sprea. Buongiorno direttore! Buongiorno, grazie a tutti che mi ascoltate, perché la radio è il mezzo ideale per far conoscere questa iniziativa. E allora, intanto io tifo sempre per tutte le iniziative che riprendono, perché ci vuole grande coraggio, ma qui c'è proprio qualcosa che riporta tutto a un tempo in cui eravamo più così speranzosi, sognatori, appunto. Sogno. Che cosa succede però nel Sogno di oggi, Sprea? Ma è una rivisitazione di un'epoca che solo adesso si può capire quanto era magica, era fantastica. Gli anni 70 e gli anni 80 erano davvero un'epoca di sogni. Il futuro era straordinario, il presente un po' tormentato, ma il futuro molto promettente. E quella per noi che facevamo i fotoromanzi, è stata davvero una stagione fantastica, che abbiamo riscoperto per caso, perché mi è successo, è un effetto secondario del lockdown, mi è successo che in casa avevo un po' di amici, una riunione domenicale che sembrava una festa in maschera, che tutti con le mascherine. Sì. Però ci annoiavamo un po', e ho tirato fuori la mia collezione di fotoromanti che si erano inumiditi, avevo bisogno di asciugarli, erano sparpagliati sul pavimento. È stato un momento magico, perché li abbiamo rivisto, l'adolescenza, gli anni belli, ognuno aveva dei ricordi legati ai fotoromanti, ma soprattutto abbiamo scoperto quanto sono belli, quanto erano belli i fotoromanti d'Anci, che belle facce e soprattutto che belle storie. La cosa stupefacente è la modernità di queste storie scritte 30 anni fa, che sembrano quelle oggi di Netflix, le storie streaming, sono modernissime, parlano dei problemi di oggi. Anche lei, Sprea, è modernissimo, anche se so che non è proprio un ragazzino. So che, insomma, no. Ma non diciamo, no, no. Non diciamo, ma lei non è un ragazzino. Ma quanti fotoromanzi lei ha sceneggiato? Perché lei, oltre a dirigere riviste note, insomma, è stato direttore di Grand Hotel, ha prodotto anche fotoromanzi, ma lei è stato anche sceneggiatore di fotoromanzi? Beh, soprattutto, io ho fatto centinaia di sceneggiature. Il mio lavoro è stato proprio questo. Quando sono approdato in Lancio, era il momento in cui io trovavo nel fotoromanzo un mezzo narrativo che non esisteva, perché era un momento di trapasso dal vecchio fotoromanzo. I primi fotoromanzi, Grand Hotel, Bolero, erano ancora storie molto semplici, erano storie un po' ingenue per ragazze che faticavano a leggere, anzi imparavano a leggere attraverso i fotoromanzi. Era un momento successivo ed era un fotoromanzo diverso, non a puntate ma in albi completi. Era un esperimento di un imprenditore molto coraggioso, che era Arturo Mercurio, e ci ha dato l'opportunità di scrivere fotoromanzi come li volevamo noi, come erano in monta noi, i condizionamenti della scansione impuntate del buono che ci deve essere, del cattivo necessario che deve essere sconfitto. Abbiamo potuto scrivere storie come storie da film, come libri. E poi avete lanciato anche un sacco di stelle, perché c'era veramente un firmamento delle star dei fotoromanzi. E quella è stata una circostanza fortunata, le cose che succedono per caso, perché dovendo realizzare questi fotoromanzi non avendo i soldi per pagare degli attori affermati, ci siamo messi a girare per le strade di Roma, via Sicilia, via Boncompagni, il centro, Piazza Colonna. Fermavamo i giovani: tu vuoi fare i fotoromanzi? Vieni a fare un provino. Ed è stato un momento di grande fervore, di effervescenza creativa, perché poi facevamo anche le storie sui personaggi, se uno era troppo giovane, se uno era troppo alto. Eravamo liberi, potevamo scrivere quello che... E la risposta è stata inspiegabilmente buona. Queste facce qui poi hanno fatto la storia: Gasparri, Ciavarro che ho scoperto io quando facevo delle riviste mie, poi è andato a Grand Hotel, anzi era Grand Hotel, perché io a quell'epoca lavoravo per Grand Hotel, è rimasto. Ciavarro, Gasparri, La Rock, Catiuscia che è in copertina di questo primo numero di Sogno. Catiuscia è l'emblema dei fotoromanzi, una creatura adorabile, di una freschezza ancora oggi, di una spontaneità straordinaria. Aveva 14 anni quando l'abbiamo fatto il provino, una delle tante scommesse, perché una ragazza di 14 anni sembrava improbabile, invece no, proprio perché lei rappresentava le ragazze di quell'epoca, le loro inquietudini, la freschezza, le ribellioni. Era una società molto interessante. È splendido, mi viene voglia di riscoprire questo genere. Direttore, io vorrei fare il provino, però vorrei fare un provino da cattiva, perché so di avere lo sguardo, posso fare la cattiva del fotoromanzo. Io sono pronta, se lei mi vuole vengo a fare una parte da cattiva. Roberta, Roberta, vieni anche tu a fare, tu vuoi parte da cattiva o da buona? No, ma lei è buona. Ma guardi che i cattivi sono più interessanti, esatto. sono quelli che io preferisco, ecco, perché ecco. I nostri cattivi non erano dei cattivi gratuiti, pagati per essere cattivi, erano dei cattivi motivati, avevano una storia dietro. Certo, certo. Ecco, io voglio fare una cattiva che ha sofferto e che quindi è diventata cattiva. Poi se mi vuole far diventare buona alla fine, lo accetto, però... Scrivo subito un copione per lei. Io la ringrazio davvero tantissimo. Le faccio un in bocca al lupo per questo ritorno di sogno in edicola. Le faccio un sacco di complimenti per la sua carriera bellissima e lunghissima e perché è sempre un ragazzino. Grazie, grazie mille a Mario Sprea. Buona giornata e a presto. Mi ha dato un'occasione fantastica. A buona giornata. Un abbraccio, grazie mille. Anche a lei. Grazie. Allora, io voglio farla cattiva, ve l'ho detto, adesso comincio a sperimentare lo sguardo, quello della cattiva del fotoromanzo. Pausa, viabilità e poi saremo ancora insieme e qua ci tocca pedalare tra poco. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento... Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Radio Tube Social Village. Giro d'Italia. Prendo la bici argento che va veloce, mi porta. L'orizzonte traguardo blu, perché sono come una formica, sudo ma non mollo mica, corro lungo le strade, chiamo nel silenzio tuo nome. È stata una primavera difficile, tante rinunce, e tra le tante rinunce c'è stata quella al Giro d'Italia. Ma il Giro si svolgerà dal 3 al 25 ottobre 2020. Il Giro ha già la sua canzone ufficiale, Gira Giro Gira G. E io sono contentissima che sia stata affidata a un gruppo che adoro e che noi di RadioTube conosciamo bene, gli Extra Liscio di Mirko Mariani. Buongiorno Mirko. Ciao Marta, grazie, che bello. Anzi, bentornato Mirko. Eh sì, ormai siamo amici. Io sono contentissima perché il progetto degli Extra Liscio è un progetto che io amo particolarmente. Liscio della tradizione, quella che comunque ci fa subito ballare, ci fa sentire l'estate, la Romagna e poi il pop, il punk, tutto insieme. Mirko, cosa hai messo in questo pezzo irresistibile? Un po' tutto. Guarda, intanto ti dico l'inizio e la fine. Ho voluto iniziare perché secondo me alla fine dei conti ho pensato che la miglior musica poteva essere quella dei raggi impazziti della bicicletta, dei rocchetti, del cambio marcia. Allora ho capovolto una bicicletta da corsa al corsellino nel pavimento, ho messo un bel microfono vicino ai raggi, ho cominciato a pedalare con le mani e quello lì è il suono che inizia, apre e chiude il brano. Dopodiché... Ha quindi sofisticatissimi effetti elettronici. Vedi, contro ogni tipo... Noi siamo una roba, siamo toccati ai tempi di Charlie Chaplin proprio, capito? In tempi moderni, proprio lavoro di manuale. La cosa dopo che ho creato, Marta, pensando alla canzone del Giro d'Italia, ho creato anche una squadra, no? Dove c'era un po' come una squadra di biciclette. Allora io sono partito con la musica, ho lasciato poi, diciamo, tirare il gruppo per un po' a Pacifico, Elisabetta, che hanno fatto il testo. Elisabetta Sgarbi, che hanno portato avanti questo testo, che partiva da una mia idea di una formica, perché vedevo in campagna da me queste formiche piccoline che non si arrendono mai, fanno sempre un casino di robe, sono piccolissime ma fanno un casino, non si fermano mai, sembra che debbano costruire chissà Dio cosa. E allora mi sembrava bella vedere anche l'idea di una formica che in qualche maniera anche lei si sente un campione, in qualche maniera, no? Facendo tutte queste cose. E allora hanno portato avanti questa idea di questa formica che si trasforma in campione. Poi dopo si è unita a noi. Io quando ero piccolino mi ricordo un'immagine bellissima del Giro d'Italia che passava nei paesi, perché il Giro d'Italia è sì lo sport più romantico che c'è, ma anche più faticoso, che negli anni ha mutato meno rispetto ad altri sport, secondo me, perché la bicicletta poi rimane una bicicletta, sicché la salita rimane una salita. E lo trovo sempre uno sport molto romantico. Io mi ricordavo questa macchina tipo con il Reno 4, con le trombe davanti al cofano, con il megafono, no? Che arrivava e annunciava l'arrivo della tappa. Io mi ricordo queste campane che suonavano, insomma, era una festa, era l'aria di festa. E allora avevo anche questa cosa qui, per me era importante nella canzone, e abbiamo pensato di coinvolgere Antonio Rezza, che è un grandissimo personaggio, un grandissimo attore, che doveva dare un'idea di dare un po' la telecronaca dell'arrivo della tappa, hai capito? E per poi finire con un bellissimo videoclip animato fatto da Michele Bernardi e Davide Toffolo. E quello che vi diciamo è la nostra squadra Panda Valera che affronta il Giro d'Italia. Però raccontiamo ancora chi sono gli Extraliscio. Magari c'è qualcuno che ci sente parlare per la prima volta. Cioè, gli Extraliscio prendono veramente dei mondi ai quali siamo molto affezionati e li mettono insieme. Guarda, Extraliscio, più vado avanti, capisco cosa sono veramente Extraliscio. Prima di tutto, un'orchestra fuori moda. E ne siamo orgogliosi. Seconda cosa, è un'orchestra di antidivi, perché cioè, chi fa musica meno male comunque entra in un mondo, si costruisce una propria dimensione dove diventi poi vittima a tua volta di un comportamento, di un tuo atteggiamento. Il musicista di Liscio ha un grande insegnamento da dare a tutti i musicisti, e anche a me l'ha dato, quello veramente di essere un lavoratore della musica, di essere uno che la musica è una cosa seria, non si scherza con la musica, perché è il loro lavoro da sempre, capito? Sicché questa è la prima cosa. Dopo la bella fusione, diciamo il miracolo, è stato quando si è mischiato questi personaggi del Liscio storico, come Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorello Tassinari, che sono i nomi storici delle orchestre più importanti del Liscio, insieme al mio mondo, che con Liscio non c'entrava proprio nulla. E qui è nato quella magia, quando nascono quelle cose belle, che dopo si è incrociata col punk da Ballera, tutte motti che ci siamo inventati noi durante, senza sapere cosa voleva poi anche dire, perché poi io non sono un musicista punk, però è nato fuori questa cosa. E in qualche maniera, Marta, ci stiamo unendo sempre di più, perché c'è qualcosa che va oltre la musica, che ci sta veramente facendo rendere conto che stiamo vivendo un'esperienza unica per tutti noi. Una cosa bella alla quale hai accennato e che mi piace sottolineare, in questo pezzo c'è un incontro tra due anime potenti. Quella del Giro d'Italia, che è un'anima che ci riporta alla nostra infanzia, a noi che andavamo a veder passare il Giro d'Italia quando passava nelle nostre cittadine. Mio nonno ci obbligava a stare a casa, da scuola e ad andare con lui quando c'era il Giro. Per noi era un rito. E poi quella del Liscio, che dicevamo un'altra anima assolutamente autentica, con delle radici profonde, una musica che non è mai andata di moda e per questo non passerà mai di moda. Sì, infatti. E guarda, dico intanto due cose, tipo, come dicevo prima, no? Il Giro d'Italia io sento veramente come uno sport romantico e faticoso. Io sono una persona che mi reputo molto romantica, si commuove, mi piace piangere davanti a un bel film. Insomma, mi piace essere... veramente, se dovevano farmi un regalo era quello di... Non sono sportivo, ecco, aggiungo, non sono un grande sportivo, e dovevo farmi un regalo e dice quale sigla tu, io avrei scelto Giro d'Italia perché lo vedo più vicino a me come carattere, ma soprattutto, come dicevi tu, lo vedo ancora più vicino al Liscio, perché comunque è il Giro d'Italia, tu non devi uscire di casa, prendere la macchina, andare allo stadio, al palazzetto, spostarti, andare a cercare. Il Giro d'Italia passa lui a casa tua, davanti a casa tua, davanti al tuo giardino, e questo rumore dei raggi che viene, che carezza il tuo prato, la tua strada, oppure che ti fa vedere questi passaggi in queste strade magari abbandonate, quasi dimenticate, c'è qualcosa di romantico e nostalgico, e Liscio è un po' questa cosa qua, è la musica popolare, la musica della gente, la musica che, dell'abbraccio, che purtroppo adesso non si può più fare, però diciamo che ha di fondo questa parte romantica, sociale, importante, che li lega profondamente. Sono veramente, al di là di tutto, come ha detto anche il giorno Mauro, mi sento di aver fatto il primo passo verso la storia, di aver fatto qualcosa dopo magari tanti anni che canto nelle balere, così, aver fatto un brano che rimarrà come la sigla del Giro d'Italia, è qualcosa di importante. Insomma. E di un Giro d'Italia particolare. Facciamo finta che quest'anno sia estate fino a fine ottobre, dai, a questo punto. Sì, diciamo che intanto è spostato, ma la cosa ancora più bella è questa qua di creare, di ritornare a vedere queste cose, come dire, una cosa importante. La musica è condivisione, la musica è emozioni. Il Giro d'Italia è un lavoro di squadra, dove c'è il gregario e c'è il campione. C'è tutto un gioco di pace, che in questo momento qua, storico, stiamo vivendo noi, dove abbiamo capito che basta un colpo di vento più fuori del solito e diventiamo tutti vulnerabili, tutti uguali soprattutto, no? Ecco, e questa qui è una cosa secondo me molto bella, e il Giro d'Italia rispecchia un po' questa cosa qua, di far capire che tutti ce la possono fare. Magari questa formica, chissà, può veramente diventare un campione, uno che non mai pensava di vincere il Giro d'Italia, può vincere il Giro d'Italia. E in questo momento qui è una cosa buona poter pensare a questo qui. È verissimo. Ti ringrazio davvero tanto, Mirko. Io ricordo il titolo del tuo singolo, che è uno scioglilingua, ma ce la possiamo fare? Gira, giro, gira, gi. L'ho detto giusto? Sì, esatto, sì. Sì, perché poi mi immaginavo, essendo un romagnolo, un po' sognatore, io mi immaginavo il mio Giro d'Italia, sai come, prendere le ruote panoramiche, no? Quelle che vedi tutto. Immaginavo un Giro d'Italia il primo giorno, quando pensavo la canzone, visto dall'alto, che visto che invece di girare per le strade, girava e tu vedevi tutti i paesaggi attorno. E quel giro, gira, gi, mi è venuto fuori pensando a questa cosa. Bellissimo, grazie a Mirko Mariani, e viva sempre gli Extra Liscio, grazie Mirko. Grazie Marta, ciao Marta, grazie. Grazie, ciao, ciao. Radio Tube Social Village. E rieccoci insieme dopo la prima mezz'ora del nostro Radio Tube. Abbiamo parlato di due temi molto divertenti e molto appassionanti. Abbiamo parlato del ritorno dei fotoromanzi, perché è tornata in edicola la storica rivista Sogno. Io faccio sempre il tifo per le nuove iniziative editoriali, lo dicevo prima, sono sempre molto coraggiose, e in questo caso c'è anche tanta passione, tanta tenerezza, la voglia di ritornare a tempi più sereni, più davvero più pieni di sogni, però così mi piace tanto che ho chiesto al direttore Mario Sprea di farmi fare un provino, e ho scelto la parte della cattiva, quindi preparatevi, perché già io sto facendo le prove per fare la cattiva di un fotoromanzo. E poi abbiamo ritrovato Mirko Mariani con il suo ultimo progetto, quello degli Extra Liscio, e la canzone del Giro d'Italia. Sì, perché il Giro d'Italia ci sarà a ottobre, e c'è già appunto questa sigla del giro per farci allungare l'estate, appunto fino a fine ottobre, perché quest'anno l'estate non finirà mai, almeno per quanto riguarda gli appuntamenti che sono stati allungati, spostati, abbiamo dovuto cambiare tante cose. Tante cose sono cambiate anche dal punto di vista televisivo. Solitamente in questo mese, nelle ultime puntate della diretta di RadioTube, seguivamo i palinsesti che venivano presentate dalle varie TV. Quest'anno la presentazione dei palinsesti Mediaset non è ancora stata fatta, probabilmente le novità verranno lanciate a settembre. Abbiamo parlato della presentazione dei palinsesti Rai in streaming, c'è stata anche la presentazione dei palinsesti di Discovery sempre in streaming, e altrettanto in streaming è stata fatta quella dei palinsesti Sky. È stata fatta questa settimana, e uno degli appuntamenti della prossima stagione che hanno più incuriosito tutti è questo. Devi fare qualcosa. Io. E chi è Totti, scusa? Io. E allora devi fare qualcosa te, no? Ma tu mi riassumi a me. Tu se guardi questa che ti sembra, no? È un po' diverso il fisico. È un po' troppo magro. Devi ingrassare? Te devi dimagrire. Ah, io dimagri? Fai una dieta. Allora, davvero arriverà un biopic, cioè un'opera biografica su Francesco Totti? Eh sì, questo era uno sketch registrato prima del coronavirus, assicurano da Sky, tra Totti e l'attore che lo impersonerà. Ma per sapere di più ci colleghiamo, torniamo a collegarci anche questa settimana, perché la scorsa settimana con lui avevamo parlato della Rai, con un carissimo amico di RadioTube, Francesco Canino. Ciao Francesco. Ciao Marta, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno, buonasera. Sai che io non so mai. No, guarda, noi facciamo dei dibattiti. Guarda, in radio facciamo i dibattiti perché c'è chi dice buon pomeriggio. Buon pomeriggio in realtà non si dovrebbe dire, non è nemmeno educato dire buon pomeriggio, non sta bene. Però a quest'ora in teoria bisognerebbe dire buonasera, ma d'estate c'è ancora il sole e quindi esatto. Noi abbiamo questi problemi esistenziali. Buon pomeriggio mi sta subito del titolo di un format di Rete4 degli anni 90, non so come sì, dirti. Sì, Patrizia Rossetti, sì. A buon pomeriggio, cioè queste cose un po'. Ma cosa mi tiri fuori? Ma cosa mi tira fuori? Patrizia Rossetti nel pomeriggio di Rete4 degli anni 90. Esatto, io e te condividiamo un po' la passione per la TV vintage. Certo, no? Certo, quindi... certo, anche se non eravamo nati per alcune cose, no, lo ribadisco perché a volte... Esatto. Però, a proposito di TV non vintage, io ho iniziato con questa gag di Francesco Totti e c'era Edoardo Lavezzari che sta facendo assistenza, che è un espertissimo di sport, e diceva: ma già c'è una serie su Francesco Totti che si è appena ritirato, cioè lui dice io capisco una serie su Totti ma tra 20 anni. Spieghiamo che cosa succederà su Sky con questo biopic. Esatto, in realtà non sarà una, come hanno scritto in tanti, una serie sulla vita di Totti, ma sarà, diciamo, un racconto in 6 puntate sugli ultimi 2 anni di carriera sostanzialmente. E devo dire che sulla carta sembra davvero molto molto intrigante come progetto, no? Perché appunto, a parte la vita di Totti, che è una leggenda sostanzialmente vivente, e poi c'è, come dire, una serie di fattori, di combinazioni che lo rendono ancora più interessante, a partire sicuramente dalla scelta del protagonista, no? Perché a interpretare Totti sarà Pietro Castellitto, perché conosciamo, insomma, Pietro Castellitto, l'abbiamo visto anche in Non ti muovere, insomma, nella Bellezza del Somaro, in altri contesti, e sia in TV che al cinema. E poi, come dire, è un super cast, perché c'è Greta Scarano che fa Ilari Blasi, c'è Monica Guerritore che invece interpreta la mamma di Totti, Tognazzi che invece fa Luciano Spalletti, poi c'è ancora Primo Reggiani, insomma. Ripeto, un cast molto interessante. E il titolo carino, il titolo è, esatto, molto carino. Anche se in realtà il titolo è provvisorio. Però per ora il titolo, esatto. Per ora speravo questo Speravo de morì prima, esatto, non è male. Esatto. Edoardo, ti convince di più messa così? Non ancora, no. Edoardo Lavezzari vuole vederla e poi ci dirà. Esatto, tratto dal libro che Paolo Condò scrisse con Totti per Rizzoli, che diceva sostanzialmente la sua biografia, Un capitano. Interessante che c'è anche la firma di una produttrice donna, che è Virginia Valsecchi, con la sua Capri Entertainment, un nome che secondo me ci abitueremo a sentire molto spesso, perché sta già facendo bene, ma farà sicuramente bene e avrà un ruolo sempre crescente, penso, nelle produzioni da tenere d'occhio, dunque. Esatto. Cosa mi ha incuriosito molto nei palinsesti Sky? L'ingaggio, tra virgolette, di Gabriele Muccino. Esatto, sì, che è l'altro, diciamo, pezzo forte di questa di questa di questi Sky Upfront, come ormai chiamano loro da molti anni le prestazioni dei loro palinsesti, Gabriele Muccino sostanzialmente fa il reboot di un suo film che è A casa tutti bene, che diventa una serie televisiva della quale per ora non è che sappiamo proprio tanto, a parte insomma la trama del film. Muccino la sta scrivendo, sappiamo che sarà un family drama in 8 puntate. Muccino dirigerà anche i primi 2 episodi e sarà poi il supervisore artistico insomma del progetto. Debutta appunto per la prima volta alla regia di una serie TV, quindi sicuramente immaginiamo un cast super blasonato, no? Perché poi lui di solito è molto bravo a mettere assieme dei nomi fortissimi. Quindi insomma, secondo me ne vedremo, sarà interessante. Sono molto curiosa anche di sapere come sarà questo non più Pechino Express, ma come si intitolerà Pechino Express. Quindi, esatto, diciamo, dopo 8 stagioni la Rai decide sostanzialmente di lasciare andare uno dei pezzi forti, no, dei palinsesti di Rai 2. E questo diciamo ha provocato una reazione anche molto forte, ovviamente parliamo sui social, non penso che sia esattamente un problema che toglie il sonno agli italiani, però per gli appassionati di TV sicuramente è un cambiamento forte, nel senso che appunto non vedremo più Pechino Express su Rai 2, ma dovremo abituarci a Pechino Express, che poi è il titolo originale di questo format belga, che appunto sbarca su Sky. Titolo cambiato, immagino, per ragioni di diritti. Sì, perché come ha scritto Davide Maggio, che è stato quello che ha lanciato la notizia, diciamo, qualche giorno d'anticipo rispetto alla presentazione dei palinsesti Sky, la Rai detiene i diritti del titolo e quindi sostanzialmente non si poteva usare. Ma conduttore sarà sempre Costantino della Gherardesca, non si sa. Questo è un bel mistero, nel senso che non è stato annunciato. Io però posso dirti che so per certo che stanno già iniziando le consultazioni per il nuovo cast, sono già iniziate, perché non posso dirti chi, ma nei giorni scorsi ho parlato con un personaggio che mi ha detto che già qualche contatto c'era stato. Rispetto a Costantino, chi lo sa, di sicuro lui sarà impegnato ancora su Rai 2, perché appunto, come abbiamo detto la scorsa settimana, continuerà a fare questo Resta a casa e vinci, che è questo quiz pomeridiano che conduce su Rai 2. Di certo sappiamo che a Sky è molto amato, tant'è che sta diciamo nelle vesti di co-conduttore, opinionista, partecipando a questo Royal, che è un programma appunto, che si occupa di gossip sui reali e dintorni, quindi chissà insomma, se riusciranno a coinvolgerlo oppure no. Di sicuro, diciamo, non so poi cosa ne pensi tu, ma lui era un pezzo forte, no, del certo, programma. Certo, è difficile molto, sostituirlo, esatto, sì. Lo aveva molto incarnato, no, in qualche modo, per la sua ironia, con il suo sarcasmo. Poi, insomma, devo dire che in questi casi si capisce quanto è forte il format da solo e quanto invece fa l'adattamento, quindi con gli autori, il conduttore. Esatto, lui era sicuramente molto forte, ha sempre avuto una squadra di autori diciamo, dell'allora Magnolia che lo hanno molto supportato, no? Perché poi sicuramente il lavoro di scrittura e di montaggio in Pechino sono assolutamente fondamentali, perché poi diciamo che il, a parte la conduzione, proprio il montaggio la chiave portante del programma. Quindi vedremo, sono molto curioso di sapere. Certo, come hanno fatto notare in molti, ancora una volta Rai 2 perde un format chiave che va poi che entra nella galassia di Sky. Sì, perché ad esempio anche The Voice quest'anno va a Rai 1 con The Voice Senior con Antonella Clerici, esatto. Già X Factor che ci sarà, e il cast ha parlato in questa presentazione, ma già era stato annunciato, insomma, è già esatto. Successo. E anche l'Isola, no? Tanti anni fa, ricordiamo che l'Isola era un format fortissimo di Rai 2, quindi come dire, dal punto di vista dell'identità della rete è tutto da costruire. Io personalmente adesso poi stiamo parlando di Sky, però non ho ancora capito bene Rai 2 dove, a che pubblico voglia parlare sostanzialmente, però questo staremo anche qui a vedere, perché anch'io sono molto curiosa. Vorrei farti un'ultima domanda su questi palinsesti Sky, perché uno dei volti più sorprendenti secondo me è quello di Paola Cortellesi. Ah, ecco, certo. Allora, beh, diciamo che forse quest'anno più che lo scorso anno le serie TV, no, in realtà no, diciamo come già lo scorso anno, perché avevano quel pezzo da 90 di Sorrentino, quindi, però diciamo che le serie TV si confermano l'architrave, insomma, dei palinsesti di Sky, e appunto ad aprire la stagione sarà il 14 settembre, se non ricordo male, proprio Paola Cortellesi con Petra, è un progetto, diciamo, quattro gialli tutti al femminile, diretto da Maria Sole Tognazzi, ispirato alle storie di Alicia Jimenez Bartlett, spero di averlo pronunciato bene, perché da anni mi tormento sul nome di questa scrittrice. No, mi pare, diciamo, perfetto. Io sono molto curioso, poi amando follemente la Cortellesi, c'è molta aspettativa, penso, no, da parte di tutti i fan della Cortellesi. Lei incarnerà appunto questa detective, che è un personaggio strepitoso. Sono curioso anche di vedere come la Tognazzi debutta, insomma, anche lei, no? Perché in qualche modo per lei è un debutto nel mondo della serialità. Quindi gli elementi sono interessanti. Però, diciamo, dal punto di vista delle serie, hanno tanti assi nella manica. Ricordiamo che a ottobre arriva la prima serie di Luca Guadagnino, che racconta appunto la storia di questi due adolescenti americani che vivono in una base americana in Italia, quindi ancora una volta Guadagnino, dopo Chiamami con il tuo nome, torna a raccontare, diciamo, il mondo dell'adolescenza. E We Are Who We Are, esatto, titolo, vero? Tra l'altro ricordiamo che la sceneggiatura l'ha scritta Guadagnino con Paolo Giordano, certo. Che non è il nostro collega no, lo giornalista, scrittore. Ma è lo sì. scrittore Paolo Giordano. E poi c'è un altro debutto forte, che è quello di Matteo Rovere, che appunto con questa serie TV Romulus racconta, diciamo, un racconto epico della nascita di Roma. Quindi e poi, proprio se vogliamo aggiungere ancora un tassello, c'è Nicolò Ammaniti, anche per lui la prima serie TV sarà tratta da Anna, il suo celebre romanzo, molto, molto interessante ancora di più, perché poi è vero che era un racconto distopico, ma raccontava la storia di un mondo devastato da un virus. Quindi, insomma, più attuale di così, certo. Non si poteva fare. E poi c'è anche la prima produzione ancora totalmente misteriosa dell'ultima rivelazione del cinema italiano, che sono I Gemelli d'Innocenzo. E anche qui sono certo. molto, molto, molto, molto curiosa, perché loro sono i nostri Golden Boy. Francesco, esatto, però ti devo leggere un WhatsApp arrivato da un ascoltatore, secondo me un ascoltatore malizioso, molto malizioso, cattivello, che mentre parlavamo del cast del biopic di Francesco Totti scrive: no vabbè, ma chi farà Flavia Vento? Ascoltatore che non ti firmi. Ascoltatore ecco. che non ti firmi. Ecco, non diciamo niente. Esatto. Ecco. Ma diciamo che però questo ascoltatore malizioso non ha, si è perso un pezzo, perché ricordiamo questo biopic e sarà incentrato sugli ultimi due anni della vita di Totti, quindi che Flavia Vento appartiene al pleistocene della vita di Totti, quindi va bene. No, ma sul gossip noi ci siamo. E poi c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice che sempre al 349-2-6666 ci dice, ci ricorda questa cosa, è molto, molto interessante, l'avevo ridimenticata, che Buon pomeriggio era anche il titolo di una trasmissione radiofonica degli anni 70 con Maurizio Costanzo e Dina Luce. Beh, allora forse Buon pomeriggio possiamo dirlo. Quando si cita Costanzo, altissima ci qualità, tutti, ci inchiniamo. Grazie a Francesco Canino, un abbraccio e a presto. Grazie a te, Francesco. Un abbraccio. Pausa per la viabilità e poi l'ultimo spicchio del nostro RadioTube Social Village. RadioTube Social Village. Allora, Allora, noi cominciamo a parlare del nostro palinsesto estivo. Allora, io vi voglio già annunciare cosa faremo insieme durante l'estate. Beh, non solo ci troveremo spesso nei giornali radio, perché ancora un po' io non vado subito in ferie, ma abbiamo i nostri appuntamenti con le notizie di GR24. Già la prossima settimana sono in turno, quindi non vado in vacanza io, va solo in vacanza Radio Tube, che tornerà poi i primi di settembre, ma saremo insieme ogni mattina alle 11, dal lunedì al venerdì. Abbiamo tantissimi appuntamenti particolarmente interessanti, abbiamo tutte le nostre puntate di Come nasce una canzone, ritroveremo anche la nostra Italia 45 giri e anche le interviste di Radio Tube, l'intervista, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11, e poi saremo insieme sempre nel fine settimana, il sabato e la domenica, alle 15 il sabato e alle 10:30 la domenica, con Ancora una poi smetto, il nostro podcast che ci ha tenuto compagnia in queste 10 settimane. Tutte le puntate sono sul sito radio24.it, sull'app di Radio 24, e eccezionalmente d'estate andranno anche in onda appunto alle 15 del sabato e alle 10:30 della domenica. E poi vorrei farvi sentire un pezzettino di una produzione che arriverà anche quella durante l'estate di Radio 24. Eccola qua. Buio. La mattina del 10 settembre del 1996 tornavo sui banchi del liceo Alessandro Manzoni di Milano per quello che sarebbe stato il mio ultimo anno di scuola. I compagni con cui avevo iniziato quel lungo percorso non erano più con me. Si erano tutti diplomati e ora affrontavano l'università. Il mio amico Walter ed io, eravamo rimasti indietro. L'anno precedente ci avevano bocciati come due polli. Non dimenticherò mai quando ci eravamo ritrovati dopo l'estate in una classe nuova, ancora compagni di banco, a consolarci a vicenda. Era il primo giorno di scuola. Poco dopo l'inizio della prima ora di filosofia ci eravamo guardati e lui con un'espressione affranta mi aveva mormorato: altri due anni, Pablo, non ci passa più. E questo è un altro podcast, avrete riconosciuto sicuramente la voce, è quella di Pablo Trincia, che noi stiamo cercando perché volevamo fare un'anticipazione con lui del nostro Buio, un podcast particolarmente importante che siamo molto contenti di poter presentare insieme a Audible durante quest'estate. Andrà in onda ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 20, sono questi gli appuntamenti con Buio. Ma c'è un ultimo appuntamento che voglio darvi, perché mancano pochi giorni. Intanto ascoltiamo qua, questa è proprio l'ultima in ordine di tempo delle cover di I Love My Radio. Vespe truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata a una targa. Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, sei una Vespa special che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa è una donna, no no. Ho è ovviamente 50 Special ed è l'ultima in ordine di tempo, perché ce ne saranno ancora. Io so già quale sarà quella della prossima settimana, ma questa è la nostra ultima puntata in diretta di RadioTube, e quindi questa è l'ultima in ordine di tempo tra le cover dei cantanti italiani fatte apposta per I Love My Radio, appuntamento che ci ha tenuto compagnia ogni sabato nelle ultime 9 settimane. Sì, 9 settimane, questa è la 10ª settimana. Abbiamo scoperto tutte le canzoni, tutte le 45 canzoni dei 45 anni della radiofonia italiana. Tutte le radio insieme hanno festeggiato e festeggeranno questi 45 anni e i 45 milioni di ascoltatori delle radio con I Love My Radio. Vi voglio ricordare che I Love My Radio non è ancora finita, perché si può votare fino al 31 luglio. ilovemyradio.it è il sito su cui votare. Ci sono le 45 canzoni dal 1975 al 2019, anzi, se volete riascoltare tutti i nostri appuntamenti con la storia delle canzoni di I Love My Radio insieme a Simone Fattori, ci sono tutte le puntate di RadioTube sul sito di Radio 24 e anche sull'app di Radio 24, che sicuramente avete scaricato nei vostri smartphone. Dunque, andate sul sito di I Love My Radio, fino al 31 luglio si possono votare, si devono votare 3 canzoni, ognuno deve scegliere 3 canzoni. So che è particolarmente complicato perché sono tutte canzoni molto belle, ma insomma vedremo quale sarà stata poi, dopo il voto, la canzone più amata dai 45 milioni di ascoltatori delle radio italiane, che per la prima volta si sono messe tutte insieme per festeggiare la radiofonia. Allora, palinsesto estivo, almeno per quanto riguarda quello che io ho preparato per voi, svelato. Appuntamento con Buio di Pablo Trincia, svelato. Ricordato l'appuntamento con il voto di I Love My Radio, non mi resta che dare la linea al giornale radio delle 17. Ovviamente noi saremo insieme anche nella prossima ora, con la seconda ora, quella di RadioTube Social, di RadioTube Social Network. O devo sbagliare anche nell'ultima puntata in diretta, con tutta l'attualità della rete e dalla rete, un co-conduttore d'eccezione. Finalmente possiamo ritornare ad avere i co-conduttori in studio, a distanza di sicurezza, ma almeno non più a distanza, almeno per la fine della stagione, con un co-conduttore d'eccezione, con tanti argomenti. Preparatevi ancora con i messaggi appuntiti, perché ovviamente torneremo a parlare di Chiara Ferragni, che vi ha fatto molto arrabbiare la scorsa settimana, ma l'attualità della rete e dalla rete arriva tra poco, tra pochi minuti. Adesso c'è l'appuntamento con il GR24, oggi in onda da Roma con Vincenzo Miglietta, quindi do la linea a Roma e noi ci risentiamo tra poco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.